Terra in vista, il 2016, spiegato a mio figlio, di Federico Taddia e Telmo Pievani. Ben ritrovati e buon Natale da Federico Taddia e Telmo Pievani. Ciao Telmo. Ciao, buon Natale. Eccoci qua con questa puntata speciale dedicata all'anno che sta per chiudersi. Abbiamo scelto quattro parole importanti, quattro parole complesse, e tenteremo di spiegare queste quattro parole che i bambini sicuramente hanno ascoltato e sentito durante l'anno, cercando di renderle più comprensibili. Partiamo con una parola che ha davvero caratterizzato il 2016 ed è terremoto. Eh sì, cominciamo con una parola drammatica che è proprio terra in vista, perfetto, perché è il modo con cui la terra certe volte si manifesta, si esprime, che dal suo punto di vista è assolutamente normale, ma se noi non ci prepariamo ci sembra eccezionale. E questo è quello che ci hanno risposto i bambini alla domanda: che cos'è il terremoto? Cosa che colpisce in alcuni territori e se è molto forte lo distrugge. Il terremoto fa crollare un po' di cose. È causato da dentro alla terra montagne che si scontrano. Sul telegiornale di solito si vede che cascano tutte, si distrugge la casa. Quello che sta sotto la terra che si agita, e allora fa anche agitare la terra, può distruggere delle cose e quindi non è una cosa bella. Non è una cosa bella, è la terra che si agita, la terra che si muove, è qualcosa che succede nel sottosuolo. Qualcuno diceva sono le montagne che si scontrano. Questo è il terremoto. Per conoscerlo meglio abbiamo invitato uno dei massimi divulgatori scientifici italiani. Diamo il benvenuto al geologo Mario Tozzi. Ciao Mario. Ciao. Eccoci, ben trovati a voi. Allora, è facile spiegare cosa sia il terremoto? Il terremoto, intanto per cominciare, è un fenomeno molto comune sulla Terra. Noi non ce ne accorgiamo perché solo quelli più forti li registriamo, ma gli strumenti registrano milioni di terremoti all'anno sulla Terra. È frequente come una pioggia il terremoto, però quello veramente forte è frequente, diciamo, come una tempesta. Ecco, però dobbiamo imparare a pensare che si tratta di fenomeni usuali per un pianeta attivo e vivo come il nostro. Che cos'è esattamente? È lo scuotimento del terreno dovuto a diverse cause. I bambini l'hanno messo in luce, ragazzi. Si scontrano dei blocchi, diciamo così, perché la Terra è ricoperta da una crosta che è tutta spaccata, è fatta da grandi blocchi che chiamiamo placche. Questi si scontrano, vanno una sotto l'altra, si aprono, si strusciano l'una contro l'altra, e purtroppo quando succede questo il riflesso in superficie è quello del terremoto. Sono le famose faglie, questi contatti fra i blocchi che appunto scatenano il terremoto. Da un punto di vista della Terra è un fenomeno assolutamente naturale e anzi vitale. Se non ci fossero stati terremoti, cioè se la Terra fosse un pianeta morto, senza terremoti, senza vulcani, e non ci sarebbe nemmeno la vita. Questo dobbiamo sempre tenerlo presente. Quindi insomma la Terra è viva, la Terra vive, si muove, esprime il proprio carattere, ha delle conseguenze che però sono tragiche, perché queste conseguenze portano distruzione, sofferenza, morte. Come si può convivere con questa vitalità della Terra? Ecco, intanto conoscendola meglio, cioè sapere che cosa è un terremoto e che di per sé il fenomeno sismico non ti fa male e nemmeno ti uccide di per sé. Cioè un terremoto in un deserto, se tu sei lì, insomma, al limite caschi per terra, si apre una frattura, ma insomma quello che ti fa veramente male è la casa costruita male. Questa è la prima cosa che dobbiamo capire. Dunque il terremoto in sé ci spaventa molto, perché sappiamo di vivere spesso in case che non sono in grado di reggere. Naturalmente parlo di terremoti italiani, che sono terremoti particolari, hanno tutta una loro storia. Intanto per cominciare non sono fortissimi, però spesso insistono su un territorio come il nostro, quello dell'Appennino per esempio. L'ultimo terremoto dell'Appennino centrale lo abbiamo bene negli occhi. Che su un patrimonio che non è ben costruito, qualche volta non è manutenuto, e dunque per questa ragione ci fa paura. E effettivamente ci dovrebbe fare paura più i costruttori che si sono comportati male o che non hanno saputo comportarsi, piuttosto che non il terremoto in sé. Questo dovremmo sempre ricordarci, perché appunto si tratta soprattutto in Italia di un fenomeno che è stato frequente per gli ultimi decine di migliaia, centinaia di migliaia di anni, e lo sarà anche per i prossimi, cioè non è che finisce qui. Ma Mario, io voglio farti una domanda da bambino proprio, perché l'hai spiegato tu adesso. Il pianeta Terra è un pianeta vivo, quindi che si scuota la Terra è un fenomeno del tutto normale come una pioggia. Non solo, ma voi geologi fate delle mappe precisissime con tutti i colori, rosso, eccetera, dove si può calcolare benissimo il rischio che c'è che avvengano territori di terremoti di una certa magnitudine in una certa zona. E quindi sarebbe così semplice di per sé sapere che lì bisogna costruire le case in un certo modo. Come spiegheresti a un bambino perché non lo facciamo? Ah beh, questa è la domanda delle domande, nel senso che in certi paesi questo lo fanno e lo hanno compreso, per esempio gli Stati Uniti e il Giappone, perché lì uno dei terremoti più importanti, che sono molto antichi nel tempo, nel 1906 negli Stati Uniti e alla fine del XIX secolo in Giappone e poi nel 1928 sempre in Giappone, ecco, quei terremoti lì hanno cambiato il modo di vedere le cose, sono stati talmente tanto distruttivi, quello di San Francisco e quello di Canto, che entrambi hanno portato le autorità, la popolazione a dire no, noi non ci rassegniamo a morire sotto le macerie, ma invece vogliamo costruire diversamente. E infatti, come è noto, terremoti di magnitudo molto più grande che avvengono negli Stati Uniti e in Giappone non fanno nemmeno un morto. Un terremoto di magnitudo 6,5 come quello che è accaduto in Italia centrale nell'estate scorsa, ecco, quello lì fa scrollare un po' di polvere dalle spalle, seppure se va male, perché non se ne accorgono nemmeno. Ora è chiaro che l'Italia c'ha case costruite molto più antiche, eccetera, ma anche gli antichi sapevano costruire bene, e che noi a un certo punto l'abbiamo dimenticato. Dunque la risposta alla domanda è che gli uomini hanno perduto la memoria in Italia del fatto di vivere in un paese nostro giovane e attivo da un punto di vista geologico. Abbiamo perduto quella memoria lì, se non vogliamo considerare il malaffare, quelli che vogliono guadagnare costruendo peggio, eccetera, ma diciamo complessivamente ci siamo un po' dimenticati, perché siccome avvengono ogni secolo, ogni due secoli, ogni quattro secoli, allora quelli forti, dico, allora dice vabbè, ma sai perché deve capitare a me, lo mettiamo un po' nelle cose fatalistiche, no vabbè, forse capiterà, no, invece siamo sicuri che capiterà, quindi bisogna che ci attrezziamo. Ma il primo passo è questo, riconoscere culturalmente, incorporarlo nei nostri schemi culturali, dire vabbè, noi viviamo in un paese fatto così, dunque ci dobbiamo fare i conti. Mario, ma è vero che non si può prevedere un terremoto? Dunque, il terremoto non lo possiamo ancora oggi prevedere, quello è l'obiettivo, eh? Si cercherà di prevederlo, perché possiamo prevedere le eruzioni vulcaniche, possiamo prevedere le alluvioni in qualche misura, anche se quelle rapide sono più difficili da prevedere, anche le frane, ma le tempeste, i cicloni, i tornado, tutte queste cose riusciamo a prevedere, il terremoto no, perché avviene troppo in profondità sotto i nostri piedi, 5, 6, 7, 10, fino a 700 chilometri, dunque sono fenomeni difficilissimi da indagare, poi oltretutto quando avvengono è già troppo tardi per indagarli, dunque sono nascosti e molto rapidi, mentre gli altri fenomeni invece ci danno tanti segni che ci permettono di poterlo prevedere, dunque per adesso ancora non possiamo farlo. E naturalmente tutte le storie sui cani che abbaiano prima, i gatti che si agitano, i maiali che pure loro, le galline che salgono sugli alberi, magari possono avere un fondamento, nel senso che questi animali possono avere una gamma di sensibilità agli ultrasuoni. Il terremoto è un'onda acustica, fondamentalmente un'onda elastica che c'è anche il rumore, sapete che si parla del boato del terremoto, dunque sì. Un po' prima, qualche secondo prima magari possono avvertire, ma insomma non è ancora possibile sistemare queste impressioni in una teoria scientifica. Mario, come si diventa geologi? Diamo un consiglio anche ai nostri ragazzi. Ah beh, guarda, posso dire la mia. Io da bambino, mentre tutti guardavano animali, piante, boschi, io guardavo le pietre, quindi non so se questo è utile, però mi mettevo sul greto di un fiume, ero in Liguria da ragazzino, il mare era, e guardavo sti ciottoli, vedevo quelli bianchi, dico, ma da dove verranno questi bianchi? Venivano dalle Alpi Apuane, magari, no? Che c'ha questi calcari, questi marmi. Oppure ce n'erano di scuri, verdi, e questi da dove erano? E mi lasciavo incuriosire da queste cose. Dunque, molta passione e molta curiosità, come quasi tutti quelli che fanno ricerca, ma nel caso della geologia è una passione e una curiosità per il pianeta su cui per la nostra casa più grande, diciamo, e dunque in qualche modo può essere anche utile. Ringraziamo Mario Tozzi, adesso ci fermiamo per la pubblicità, ma prima Bruno Tognolini da Rime Raminghe che ci legge la sua filastrocca Rima della Terra che Balla. Oggi non piove, la terra non si muove, vola farfalla, la terra oggi non balla. Ieri pioveva, la terra si muoveva, sabbia di mare, casa mia non sa ballare, resta ferma e cade giù, casa mia non ce l'ho più. Ma oggi non piove, facciamo case nuove, case farfalla, gentili le vorrei, che se la terra balla, loro ballano con lei. Qualcuno sa da dove viene questo proiettile? Perché è vero che a spararle è stato uno stronzo talebano, ma qualcuno gli ha dato il fucile. Valerio Mastandrea racconta Storia di una pallottola, un giorno a Kabul. Chiama la sala operatoria, avvisali, ne abbiamo altri tre. E questo va in radiologia, questo va subito in sala. Il radiodocumentario dall'ospedale di emergency a Kabul, con le testimonianze degli operatori. Ti puoi abituare alle conseguenze della guerra, ma non ti abituerai mai ad un'esplosione. Storia di una pallottola, un giorno a Kabul. Il web documentario su emergency.it. Il radiodocumentario, lunedì 26 dicembre alle 16:30 su Radio 24. Terra in vista, il 2016, spiegato a mio figlio. Eccoci qua, ancora terra in vista con una seconda parola, una parola difficile che ha segnato questo 2016. Telmo, la parola è Brexit. Beh, è un'invenzione. Come le parole, anche i confini vengono inventati da sempre, e questo è un confine che ritorna. La manica, che qualche volta separa, qualche volta unisce, è diventata un po' più profonda. E noi, come sempre, iniziamo con i nostri giovani ascoltatori. A loro abbiamo chiesto la definizione della parola Brexit. Allora, Brexit, quando l'Inghilterra è voluta uscire dall'Unione Europea. Il referendum che hanno fatto gli inglesi per uscire dall'Europa. L'Europa è il continente dove sta l'Italia, la Francia, la Spagna, la Germania, gli Stati Uniti e l'Inghilterra. È un continente che si divide in tanti stati e l'unificazione tra questi stati che hanno cose in comune come la moneta. C'è un territorio più o meno grande, grandissimo. Questa è la Brexit, questa è l'Europa secondo i nostri giovani ascoltatori, ma visto che vogliamo capire meglio, vogliamo far comprendere anche a loro il significato di queste parole che hanno caratterizzato l'anno, abbiamo il piacere e l'onore di avere con noi la Presidente della Camera, Laura Boldrini. Buongiorno Boldrini. Sì, buongiorno a voi. Buongiorno, benvenuta. Allora, buongiorno. Per lei è un compito non facile spiegare ai più piccoli che cos'è questa Europa. Questa Europa nasce come un grande sogno, anzi nasce come un'utopia, nasce durante la Seconda Guerra Mondiale, quando gli Stati europei si facevano la guerra tra di loro, quando tutto intorno c'era distruzione in Europa, e nasce in una piccola isola che si chiama Ventotene, dove lì vennero deportati dei giovani antifascisti, che cominciarono a confrontarsi su come riuscire ad avere la pace in Europa, che cos'era il presupposto, da dove bisognava partire per pensare a un'Europa in pace, visto che l'Europa aveva sempre nei secoli vissuto la guerra. E allora capirono che per avere la pace bisognava federare gli stati, perché gli stati, se sono federati, se stanno insieme, non si fanno la guerra. E quindi cominciarono a ragionare sugli Stati Uniti d'Europa. Quindi nasce lì come un sogno di libertà, un sogno di pace, un sogno di benessere. Poi a volte i sogni diventano pure realtà se gli uomini si impegnano, se gli uomini e le donne credono che la vita e la storia è un rincorrere le utopie. E quindi questa utopia man mano si cominciò a concretizzare. E Roma ebbe un ruolo essenziale in questo, perché a Roma circa 60 anni fa appunto furono firmati i trattati sulla comunità europea, le comunità economica europea, e da lì un lungo percorso molto difficile, fatto di stop and go, in cui si è sempre andati avanti, non c'è stato mai un momento in cui si è tornati indietro, perché volevamo stare insieme, volevamo essere liberi, volevamo poter lavorare, studiare in ogni paese. Volevamo poterlo fare sentendoci a casa e di fatto così è andata. Ci siamo trovati in 28 e ci siamo trovati come se fossimo stati poi nel nostro stesso paese, perché potevamo lavorare con gli stessi diritti in ognuno degli altri 27 paesi, potevamo muoverci liberamente, in alcuni di questi paesi, in 19, avevamo la stessa moneta. Un percorso che però ancora non è terminato e oggi l'Unione Europea vive un tempo duro, un tempo difficile, dove un tempo in cui molti credono che questo disegno sia causa dei mali, dei problemi, anziché la soluzione. E questa percezione, questa dimensione si deve anche al fatto che l'Unione Europea in questi anni forse non ha saputo dimostrare tutta la sua potenzialità, essere in contatto diretto con i cittadini, essere l'Europa appunto delle persone, ma è stata più l'Europa dei palazzi, dei tecnocrati, di quelli che hanno guardato più all'interno che all'esterno. E quindi questo ha fatto molto allontanare le persone. L'Europa per alcuni è diventato insomma sinonimo di problema, sinonimo di ristrettezze, di sacrifici, e oggi noi ci troviamo di fronte al fatto che anziché riuscire a superare questo momento di crisi andando avanti in quell'idea, in quell'ideale, in quell'utopia, cioè riuscendo a avere un grande spazio comune a tutti i livelli, quindi gli Stati Uniti d'Europa, anziché fare questo e superare il guado in cui ci siamo trovati, in molti dicono che la soluzione è distruggere tutto. Certo, Presidente, questa è una trasmissione per gli europei di domani, no? Per i ragazzi che diventeranno gli adulti cittadini europei di domani. Come lei adesso spiegava, l'Europa non gode di buona stampa perché è associata all'idea di una burocrazia asfissiante, tecnica. Come se ne esce? Nel senso, andiamo avanti su un percorso così di graduale, di piccole conquiste, o forse soprattutto con i ragazzi, con i giovani, dobbiamo proprio recuperare quel sogno, no? Quella visione. Gli Stati Uniti d'Europa è una visione bellissima del futuro che forse potremmo proprio, come dire, condividere insieme con i giovani, quelli più giovani di tutti, o no? Intanto dobbiamo valorizzare tutto quello che abbiamo ottenuto, che non è ovvio, non è scontato. 70 anni di pace, diritti acquisiti, uno spazio dove tutti possono godere delle stesse libertà. Valorizzare questo è stato frutto di tanto lavoro dietro le quinte, tanti incontri, tanti negoziati. Poi è vero che l'Europa però deve essere più attenta alle questioni sociali, è vero che deve essere più capace di fare crescita e non solo di guardare ai conti. Certo, i conti devono essere in regola, però non può essere che i conti abbiano la meglio su tutto, anche sull'impatto sociale che questo implica. Cioè, se per far tornare i conti io devo condannare milioni di persone alla povertà, alla miseria e togliergli il futuro, questo non è possibile, non si tiene. E questo crea molta sfiducia poi nelle istituzioni nazionali ed europee e crea un senso di rivolta da parte delle persone. E quindi poi questo viene sfruttato da chi appunto vuole vedere nell'Europa la causa di tutti i mali, da chi fa populismo, da chi ha ricette molto semplici a problemi complicati. E allora io credo che l'Europa dovrebbe stupirci. Questa idea dello stupore ci piace, la facciamo nostra e crediamo un'Europa sorprendente. Sì, sia il migliore auguri anche per il nuovo anno. Grazie davvero alla Presidente della Camera, Laura Boldrini, per essersi grazie messa voi, in gioco con auguri. Noi. Buon arrivederci. L'Europa come risposta alla Brexit, ma adesso c'è il nostro filosofo della scienza, Telmo Pievani. Con quale storia Brexit ed Europa cosa ti hanno ispirato? Ma mi hanno ispirato l'idea di proporre ai nostri ascoltatori una visione evoluzionistica dell'Europa, perché noi oggi vediamo i confini, no? Ma i confini sono un'invenzione artificiale recentissima, no? Sulla Terra non ci sono stati sempre i confini. La Gran Bretagna, che ha votato per uscire dall'Europa, nelle epoche antiche in cui faceva freddo, era attaccata all'Europa, era tutto unico, la manica era una pianura, si passava dall'altra parte. Sì? Persino i Neanderthal sono entrati in Inghilterra e non sono riusciti a fare dei muri per fermarli. Perché l'Europa che cos'è? È la propaggine occidentale dell'Asia, dell'Eurasia, e il Mediterraneo è quello snodo, non ci hai mai pensato, che lega tre grandissimi continenti, l'Africa, l'Asia e l'Europa nel Medio Oriente. Noi siamo lì in mezzo. L'Europa è questa, è questa storia, è un ponte tra continenti che non ha mai avuto confini, è sempre stata occupata. Tu pensa che in Europa hanno abitato quattro specie umane diverse. Se la vedessimo così, con uno sguardo un po' profondo, forse potremmo anche immaginare meglio quell'Europa sorprendente che dicevamo. E dopo il racconto di Telmo Pievani adesso ci fermiamo, la pubblicità, ma prima una filastrocca presa da Rime di fare e non fare, Gallucci editore, scritta e interpretata da Bruno Tognolini, filastrocca per contendersi il territorio. Fino a qui comando io e da qui comandi tu. Questo qui è il posto mio, tu da qui non passi più. Questo è il gioco dei confini, siamo qui, siamo vicini, ma tra noi c'è un segno scuro, duro come un muro. Questo segno nella terra non fa pace, non fa guerra, dice solo, se capisci, qui io inizio e tu finisci. Festeggiare, regalare, illuminare, cantare, gioire, incontrare, ritrovare, brindare, mangiare, abbracciare, baciare. Radio 24, libera la voglia di Natale. Terra in vista, il 2016, spiegato a mio figlio. Ancora Federico Taddi e Telmo Pievani, ma soprattutto ancora le parole difficili che hanno caratterizzato questo 2016. Telmo, la terza parola è referendum. Referendum, cioè sostanzialmente democrazia, ovvero, per dirla con i nostri amici piccoli, siamo tanti, siamo diversi, ognuno con le proprie storie. Come facciamo a decidere insieme, collettivamente? Quali regole ci diamo per decidere? Partiamo proprio dalla voce dei bambini e delle bambine. Allora abbiamo chiesto di dirci che cos'è un referendum. È un referendum, è un'elezione che si fa per decidere delle cose. Si va a votare per decidere se una persona ha ragione oppure no su qualcosa. Siamo in democrazia, il numero di persone più alto vince. A un referendum è, se dico bene, una specie di riunione. Si parla di che si parla? Insomma, c'è un po' di confusione. Sì, dobbiamo chiarire qua. Questa della riunione di che si parla, boh, in effetti è una condominio domanda. Condominio e poi si decide. Può essere. Per capire che cos'è il referendum, ma soprattutto per capire che cos'è la democrazia, abbiamo con noi un ospite che da anni tratta questi argomenti portandoli proprio tra i banchi di scuola, le regole raccontate ai bambini, cos'è la legalità, sei stato tu la Costituzione attraverso le domande dei bambini, sono alcuni dei titoli da lui firmati. Diamo il benvenuto all'ex magistrato Gherardo Colombo. Buongiorno Colombo. Benvenuto. Buongiorno, grazie. È facile parlare di legalità ai più piccoli? Ma io direi di sì, beh, è necessario riuscire a entrare nel loro linguaggio, cioè parlare con parole comprensibili, ma secondo me non è difficile, insomma ci si capisce bene, come sembra. Ecco, noi siamo partiti da una parola che non è molto comprensibile per i più piccoli, che è referendum. Da dove partirebbe lei per spiegare che cos'è un referendum? Io partirei da regole che sono loro abbastanza consuetudinarie, che regole che applicano anche, no? E partirei dalla loro classe. Mm-hmm. Cioè, mettiamo che in classe, no? Sì. Si faccia una regola nuova che dice che l'intervallo, invece di durare, facciamo 10 minuti, dura 5 minuti. Ok. Allora ci sono un po' di bambini di questa classe, facciamo che siano 5, che dicono, che vanno dalla maestra e dicono: maestra, guarda che questa regola non ci piace, perché secondo noi 5 minuti di intervallo sono troppo pochi. E allora noi ti chiediamo che tutti i ragazzi, tutti i bambini della nostra classe dicano se a loro va bene questa nuova regola oppure no. Si vota e se la maggioranza delle persone dice che la regola non va bene, la si toglie, cioè la si abroga. Ecco, questo è il referendum abrogativo. Giusto. Quest'anno ho parlato soprattutto del referendum confermativo, quello che si usa in certe situazioni e a certe condizioni quando viene cambiata una regola della Costituzione, un articolo della Costituzione. E perché nel primo caso, se c'è nella scuola dei bambini, in quella classe, se non vanno però, decidono di non votare un sacco di bambini, non vale? Non è stato raggiunto il quorum? Cos'è il quorum? Ecco, in questo primo caso è necessario che voti la maggioranza degli aventi diritto, cioè che voti la maggioranza dei bambini e che tra questa maggioranza dei bambini in maggioranza sia favorevole ad abrogare, a togliere la regola. Ma questo me lo sono sempre chiesto, qual è la filosofia di partenza di questo? Perché se vanno in pochi, perché in fondo quelli che sono andati sono quelli che hanno deciso di votare. Vuol dire che non c'è interesse a togliere la regola. Ok, quindi non vale. Io credo che noi, anche gli adulti, riescono a capirlo meglio se facciamo l'esempio della classe. Sì, è vero. Cioè, la classe è una piccola comunità, la regola è la legge. In questa piccola comunità, se nessuno si prende la briga di andare a dire no, a me non piace che la regola sia cambiata, allora la regola resta quella di prima. Certo, ed è anche un esempio della democrazia. Se dobbiamo spiegare a un bambino che cos'è la democrazia, questo esempio rende l'idea. Beh, aiuta perché democrazia vuol dire letteralmente potere del popolo, governo del popolo, io direi amministrazione da parte del popolo, cioè è il popolo che decide in che modo si gestisce la società. Per farlo generalmente si vota, anche perché non c'è soltanto il voto con il quale si scelgono le persone che amministrano la società, così come in classe alle scuole elementari succede, non in tutte le scuole, ma a volte succede che si nomini il rappresentante di classe, cioè non succede in tutte le classi che questo avvenga effettivamente, però è una pratica che io credo conoscano tutti i ragazzi. Certo, e andare a votare è un diritto, è un dovere? Cosa racconta quando va tra i banchi? Secondo la nostra Costituzione dire che l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, articolo 1, sostanzialmente dice anche che perché l'Italia sia una democrazia è necessario che i cittadini si impegnino, lavorino, proprio perché sia democratica l'Italia. Sì. Cioè la democrazia può funzionare soltanto se i cittadini lavorano perché il popolo partecipi all'amministrazione, no? Un'ultima questione, perché lei spiega la legalità ai bambini e quando uno pensa alla parola legalità viene in mente una punizione, qualcosa di punitivo. Come si fa invece a spiegare che la legalità è qualcosa di positivo, è la garanzia dei diritti di tutti, no? Poi in fondo. Allora, sempre che il contenuto delle leggi sia coerente con quello che diceva, perché era legale il nostro paese quando le donne non potevano votare perché la legge prevedeva che non potessero votare. Legalità vuol dire soltanto osservanza delle leggi. Poi le leggi variano a seconda del contenuto e quindi possono esserci delle leggi giuste, per sintetizzare diciamo così, o delle leggi ingiuste. Gli italiani nel 1938 hanno osservato le leggi razziali, che erano sicuramente delle leggi ingiuste. Il paese era legale perché erano leggi Allora, legalità è una parola di per sé neutra. Poi bisogna andare a vedere che cosa le leggi dicono. Lei comunque prima mi faceva riferimento alle punizioni. Io credo che far riferimento alle punizioni sia un sistema che non consente alle persone di imparare a gestire la propria libertà. Secondo me le leggi non si rispettano perché si ha paura di essere puniti se le si trasgrediscono. Le leggi si rispettano perché si è convinti che è giusto, che è bene, che è opportuno, che è nostro interesse rispettarle. E mi sembra il messaggio più bello, insomma, per raccontare cosa sia, no? Vivere in una democrazia nel rispetto delle regole, non per punizione, ma per convinzione. Un grazie davvero a Gherardo Colombo per essere stato con noi a Terra in Vista. Buona giornata, Colombo. A presto. Anche a lei, anche a voi. Arrivederci. Il referendum, le elezioni, il voto, il partecipare, insomma la democrazia. Termo, la democrazia è sempre esistita. No, la democrazia è un'invenzione recente. Abbiamo sentito quanto è complicata, quanto abbia bisogno di manutenzione costante, di vigilanza costante. Perché, sai, noi vediamo da una storia evolutiva in cui siamo stati in pochi, no? Da piccoli gruppi sociali, soprattutto di cacciatori raccoglitori, e lì c'era qualche gerarchia di prestigio, però in fondo si era tutti uguali, si redistribuiva la ricchezza, si prendevano decisioni in gruppo, era più facile. Poi siamo cresciuti tanto e a quel punto bisognava trovare delle soluzioni diverse. C'è chi ha scelto di imporre il potere agli altri, quindi con una gerarchia ancora più forte. Qualcuno ha scelto il sorteggio qualche volta, cioè si decide che c'è un gruppo di persone che sono adatte a governare, ad amministrare la cosa pubblica, e poi si sorteggia tra queste. Questa non è la soluzione in questo momento adottata. E poi c'è la grande invenzione europea, ricordiamolo sempre, in cui appunto decide e amministra il popolo sovrano, che fa evolvere le leggi. Però, come si ricordava poco fa molto giustamente, la democrazia ha bisogno di cura e deve avvenire in un contesto in cui possa realizzarsi, cioè ci vuole che le persone lavorino per la democrazia, ci vuole la libertà dal bisogno, perché altrimenti uno decide ma è condizionato nel decidere, non è veramente libero. Quindi c'è democrazia solo quando si è uguali, quando c'è giustizia. E i referendum sono un modo, se vuoi, per decidere in modo un pochino più diretto. Quello che i ragazzi del futuro, secondo me, dovranno capire è se quando si decide in tanti si decide meglio, necessariamente, o forse se quando si decide in tanti a volte ci si fa anche un po' manipolare dalle informazioni, dalle bugie che circolano nella rete. Quindi stare attenti a questo. E state attenti quindi quando dovrete andare a votare per la vostra ricreazione, per la durata dell'intervallo, che mi sembra comunque fondamentale. Esatto. Adesso ci fermiamo, è il momento del traffico, ma prima una filastrocca di Bruno Tognolini, la filastrocca della scelta difficile, estrapolata dal libro Filastrocche della Melevisione. Meglio così o meglio così? Io non capisco cosa devo fare. Meglio di no o meglio di sì? Ci sono due strade e non so dove andare. È meglio quello? È meglio questo? Povero cuore che nel dubbio atroce, meglio se vado, meglio se resto, rischia di aprirsi come una noce. Ma se si apre, lo vedrò meglio, lo capirò forse quello che voglio, la scoprirò la via giusta qual è. Povera noce, povera me. Ho deciso di indire un giubileo straordinario. Now it's time for America to bind the wounds of division. The British people have made a very clear decision to take a different path. Il no ha vinto in modo straordinariamente netto, come era evidente. Sta pronto per fare storia. Vi aspettiamo con le emozioni dell'anno appena concluso e le speranze per l'anno che verrà. Gli speciali di Radio 24, le voci del 2016, le sfide del 2017, sabato 31 dicembre alle 8:15 e alle 21 su Radio 24. Terra in Vista, il 2016, spiegato a mio figlio. È il momento della quarta parola per capire meglio questo 2016, una parola poi che è un nome, il nome è Bob Dylan, che ha vinto il premio Nobel. Telmo, ricordiamo che cos'è il premio Nobel? Ricordiamo ai nostri ragazzi che potrebbero vincerlo in futuro. È il premio più prestigioso per molte discipline, viene consegnato una volta all'anno in una cerimonia bellissima in Svezia e in Norvegia. C'è quello per la pace, per l'economia, per diverse scienze, e poi c'è anche quello per la letteratura, che però raramente va a un musicista o è a un poeta delle note, e questa volta è successo. Allora, partiamo come sempre con la voce dei nostri giovani ascoltatori, a loro il compito di dirci chi è Bob Dylan. È un cantante che ha avuto il premio Nobel soprattutto per cosa scriveva nelle sue canzoni. Sì, ho sentito le canzoni sulla radio della macchina. Credo sia un cantante, è vero. Non so se è morto. Il premio Nobel è quando ti danno questo premio perché tipo hai inventato qualcosa. Il premio Nobel è un premio per un riconoscimento. Se una persona ha fatto una determinata cosa e ha avuto un determinato successo, ha poi un riconoscimento come il premio Nobel. Tranquillizziamo subito il giovane ascoltatore: Bob Dylan è ancora vivo, ok? E questo è importante. E chi è Bob Dylan? Come sempre, insomma, grandi esperti qui a Terra in Vista, e oggi abbiamo il piacere di avere con noi il musicista, scrittore, produttore discografico e anche giudice di X Factor, Manuel Agnelli. Ciao Manuel. Ciao, benvenuto. Ciao a tutti, ciao, grazie. C'hai mai fatto un pensierino anche tu al Nobel? No, non esageriamo, no. Allora, abbiamo convocato Manuel perché, oltre ad essere grande esperto di musica, sei anche un appassionato di Bob Dylan, vero? Sì. Sì, sicuramente è una delle persone, dei musicisti che mi hanno influenzato di più, ma non solo a me, ha cambiato diverse generazioni, credo. Mm-hmm. Allora, a te il compito di spiegare ai bambini chi sia Bob Dylan. Non è facile, però Bob Dylan è un poeta, uno scrittore che ha scritto delle parole molto molto importanti, molto forti, e soprattutto ha raccontato delle storie, e le ha raccontate così bene, è riuscito a raccontare le storie, le emozioni che vedeva intorno a sé così bene da cambiare il modo di pensare di più di una generazione, di un sacco di persone, per cui è riuscito a raccontare quello che gli altri non riuscivano a raccontare, insomma. E questo, insomma, questo è il poeta, quello che con le parole riesce a dire cose che altri a volte non vedono o a volte non riescono a dire. Però anche la musica ha un'importanza. Queste parole senza musica avrebbero avuto lo stesso effetto? No, credo che nel suo caso lui è comunque un grande musicista e anche un grande cantante, mia opinione. Credo che la musica in questo caso sia servita però davvero come base per raccontare delle cose e non il contrario, no? La parola all'interno della canzone di Bob Dylan ha un'importanza superiore, secondo me, alla musica. La musica è notevole comunque, però la parola ha un'importanza superiore, e credo che il Nobel non sia casuale, cioè comunque Dylan insieme a pochi altri è riuscito a portare veramente la letteratura dentro la musica, dentro le canzoni, e a renderla ancora più popolare, no? Quindi ha fatto un lavoro comunque per l'arte anche. C'è un pezzo che vuoi consigliare ai nostri giovanissimi ascoltatori, che forse è il pezzo migliore per conoscere, per iniziare a frequentare Bob Dylan? Ma sono tantissimi pezzi, è quasi impossibile. Credo che Blowing in the Wind sia probabilmente il pezzo che più chiaramente ai ragazzi può spiegare che cos'è Bob Dylan, che cosa cercava e che cosa è riuscito a comunicare, forse. Ma Manuel, questo è stato un anno un po' particolare, che ci ha lasciato Leonard Cohen, un altro poeta delle parole, un altro menestrello particolarissimo. Ma Dylan ha fatto molto discutere perché ha deciso di non andare a ritirare il premio. Resta un po' un mistero questa scelta. Tu che idea ti sei fatto? Cos'è successo? C'è un messaggio dietro o no? È solo una sua scelta personale? Io non ho un'idea precisa, sinceramente mi ha sorpreso perché lui altri premi li ha ritirati in passato, quindi non credo che abbia un'idiosincrasia nei confronti dei premi. È un po' strano perché questo fra i tanti premi che ha preso forse davvero è un premio che sdogana la canzone ad alti livelli, a livello letterario, quindi aveva forse più senso ritirare questo di altri. Avrà avuto i suoi motivi personali, non lo so, un po' strani, perché per ritirare il Nobel io penso che si possa cambiare l'agenda degli impegni abbastanza facilmente. Telmo Pievani era molto arrabbiato con Bob Dylan quando gli ho detto che avremmo parlato di Bob Dylan oggi, ha detto ma no, quel maleducato. Ma sai, per me il Nobel è una cosa talmente eccelsa che non andare a ritirarlo, anche perché c'è un sacco di gente che avrebbe voluto ritirarlo e non è potuta andare a ritirarlo perché no, il premio Nobel è stato dato anche a grandi dissidenti, scrittori, certo, che non sono potuti andare perché erano in mezzo a dittature, quindi non andare a ritirarlo secondo me è stato un pochino irriverente, almeno nei confronti di questi suoi predecessori, diciamo. Lui è sempre stato un irriverente, forse questa è l'unica cosa coerente che si può dire rispetto ai suoi comportamenti, quindi forse non voleva essere istituzionalizzato, non lo so, nel suo caso comunque è un po' strano perché ormai, che lo voglia o no, è un'istituzione, quindi non so, è un po' strano, ma lui lo è sempre stato, ecco. Ma forse c'è anche un altro tema, secondo me, cioè che è un artista sublime, no? Però noi pensiamo di unire al talento artistico anche l'umanità del singolo e poi tutte le sue problematiche personali. In realtà sono due cose distinte. Uno può essere un artista eccelso, assoluto, ma essere anche un uomo che ha delle sue problemi, problematiche, particolarità. Ma no, cosa dici? Io l'ho sempre usato come esempio, Dylan, che si rifiuta di ritirare il Nobel. Anche a X Factor dicevo, non dovete votare le persone per simpatia, perché per esempio Dylan probabilmente è molto antipatico, però ha vinto il Nobel. Poi siccome è antipatico non va a ritirarlo, esatto. Però l'ha vinto il Nobel, quindi sì, dobbiamo scindere la persona dall'opera, questo sempre e comunque, però non è detto che comunque Dylan sia una persona di poco valore perché non è andato a ritirare il Nobel. Lo ripeto, sarebbe carino sapere perché, ma finché non lo sappiamo, sinceramente, manteniamo almeno un minimo di dubbio. Esatto. Manuel, Bob Dylan avrebbe vinto X Factor? Secondo me no, lo dico proprio schiettamente, perché purtroppo i parametri per cui i musicisti vincono X Factor sono lontani da quelli che per me sono le caratteristiche di un grande musicista. Lo dico con rammarico perché io sto cercando di portare una visione all'interno del programma, capisco anche che è giusto rispettare le altre divisioni, però quello che vedo io è che adesso il gusto delle persone si è formato su cose molto lontane dai contenuti, molto lontane dall'emozionalità, e sono tutti più vicini a voler giudicare, diciamo, la prestazione tecnica, il fatto che una persona sia televisiva o meno, cioè che riesca a essere divertente soprattutto. Ecco, questa cosa del divertente per me è un po' opinabile, perché a me alcune cose che divertono gli altri non mi divertono, per esempio, e viceversa, per carità. Certo. Manuel, un'ultima domanda, stavo pensando ancora ai bambini e alle bambine che ci stanno ascoltando, no? Che si è abituati fin da piccoli che ti dicono scrivi un tema, fai un riassunto, fai una relazione, nessuno ti dà mai un foglio bianco dicendo scrivi una canzone. Sì. Come si scrive una canzone? Qual è il modo migliore per iniziare? Beh, non ce n'è, io non ho mai avuto un metodo, infatti scrivo poco perché mi rifiuto di avere un metodo. Io direi che il modo migliore per cominciare a scrivere una canzone è raccontare se stesso, raccontare una storia. Voler raccontare quello che si è visto, quello che si è provato, e cercare di metterlo in musica in modo che diventi ancora più emozionante, insomma, o più divertente anche, no? meno rigido di un tema, meno rigido di un racconto. La canzone ti permette comunque di tirare fuori delle emozioni anche se non le spieghi, mm-hmm. E questa è una cosa molto bella, perché anche la letteratura lo fa ad alti livelli, per carità, però nella canzone è un po' più facile, potete raccontare voi stessi senza per forza dovervi spiegare. Che bello, sai, vedi? Grazie davvero a Manuel Agnelli per averci raccontato Bob Dylan e non solo. Ciao Manuel e buon anno, grazie. Ciao, buon anno a voi, ciao. Bob Dylan, il premio Nobel, parole di questo 2016, le ultime parole che abbiamo scelto in Terra in Vista. Telmo, parole che ti suggeriscono cosa? Ma guarda, riprenderei proprio quest'ultimo spunto, che l'arte, in particolare la canzone, ti permette di esprimere le emozioni senza spiegarle. Secondo me questo è anche l'inizio di tutta l'arte nell'evoluzione umana. Pensa, è stata fatta una scoperta qualche mese fa bellissima in una grotta che si chiama Bruniquel, vicino a Tolosa in Francia. Hanno trovato in fondo a un cunicolo lunghissimo a 300 metri nel buio una stranissima struttura fatta di stalagmiti, stalattiti, ellittica, senza cibo, con un focolare in mezzo. E chi l'ha fatta? L'ha fatta qualcuno 170.000 anni fa, quindi un Neanderthal. E l'unico modo che ci spieghiamo per capire cos'è successo lì è che danzassero, che fosse un rito, e quindi che avessero la musica, quantomeno le percussioni. Quindi probabilmente l'arte, la musica, i riti sono nati molto molto prima di quanto non pensassimo, e tutto lascia immaginare che lì si raccontassero anche delle storie, no? Perché l'arte ha questo aspetto particolare, unico, se vuoi, nel mondo naturale, che è simbolico, cioè ti dice delle cose ma rimanda ad altre, quindi è tipico della immaginazione umana, che vuol dire inventare mondi possibili che non esistono ma che sono dentro la tua testa e che qualche volta poi esistono, cioè anticipano la realtà che esiste veramente là fuori. Questo è tipico di Homo sapiens, solo noi lo sappiamo fare. Vorrà dire qualcosa? E con questo racconto di Telmo Piovani chiudiamo la puntata di Terra in Vista, il 2016, spiegato a mio figlio, ma saremo ancora insieme tutti i giorni da martedì 27 dicembre alle 13.30 in replica alle 21.15. Grazie Telmo e buon Natale ancora. Anche a te, a presto. Un grazie a Paolo Corleoni per la parte tecnica e a Paola Manduca che con noi ha scritto la puntata, ma l'ultimo grande grazie va a Bruno Tognolini con la sua arte, la sua voce. Ci ha accompagnato e ci accompagnerà in queste puntate. Chiudiamo con Filastrocca del Cantastorie da Rima Rimani di Salani. Il mondo sta fermo, il cuore si muove, e qui il cantastorie con le storie nuove. Il sole sta fermo e più non tramonta, e qui il cantastorie che adesso racconta. Il tempo sta fermo e tutti i minuti si sono già messi seduti.